later that you think. La fabbrica di polli. Scappa la sigla, cosa fai? Ma che sigla, Drago? Sigla. Basta, le ho contate, sono 200 mezzanotti che siamo qui, guarda, le ho contate sul muro, quindi basta, ormai quindi siamo basta. Una serie di tutto rispetto. Vabbè, Drago. E allora? Possiamo anche permetterci di venire inglobati da una serie più grande di noi. Cosa stai dicendo? Ma sì, come per le società, piccole e giovani che hanno successo vengono comprate da società più grandi, succede tutti i giorni. Sì, vabbè, ma per le serie invece? Per le serie non lo so, immaginati una serie come CSI, CSI che... compra la fabbrica di polli, che ingloba la fabbrica di polli. Noi finiamo in CSI? No, al contrario, CSI che finisce dentro la fabbrica di polli. Ah, e cosa succederebbe, scusa? Succederebbe come in tutte le puntate di CSI, che c'è la sigla e poi si comincia. Anzi no, prima c'è il pre-sigla. Il pre-sigla? Sì, poi c'è una frase di Grissom, che è il protagonista. Drago, non sai niente. Vabbè. E poi c'è la sigla, almeno la sigla lo sai che è degli Who, no? Ah sì? Forse anche voi avete comprato i polli confezionati dal vostro droghiere di fiducia e certamente avrete creduto di mangiare carne di pollo. Ma quello che avete mangiato era solo una spietata crudeltà. I nostri infiltrati hanno segretamente filmato gli operai nell'impianto di lavorazione mentre gettavano i polli ancora vivi contro il muro, li calpestavano e se li passavano prendendoli a calci. Questa è la parte divertente. La sede operativa della Polizia Scientifica di Las Vegas è il primo giorno di lavoro per il nuovo agente proveniente dall'Europa. Anzi, dalla Svizzera, che non è Europa, perché è Svizzera. Guten Tag, lei è il signor Grissom? Ciao. Sì, io sono agente primo di classe di Svizzera. Vieni con me, un altro 419 al Nellis Boulevard. Sì, e che cosa vuol dire? A quanto pare si tratta di galline. Come galline? Crede sia venuto in Nevada da Svizzera per andare dietro di galline? E in un battibaleno, Grissom e primo di classe raggiungono il capitano Brass, già operativo sul luogo del delitto. Allora ragazzi, ecco lì cosa abbiamo. Il morto su quella piastra si chiamava Raimundo Suarez, era addetto al turno di notte. Puliva l'attrezzatura dalle 8 di sera alle 4 del mattino. L'hanno trovato così quelli del turno di giorno e il caporeparto ci ha chiamati. Eh sì, cosa dovevo fare? Abbiamo trovato questo cocorito grigliato sulla piastra, il lavoro doveva andare avanti e ho chiamato. La piastra è collegata all'impianto della corrente elettrica. Ed è per forza che è collegata, ma tu saresti lo scienziato. Sì, allora? Perché qui, prima... ci diamo una bella tramortita con la corrente, no? E poi li portiamo di là al reparto macerazione. Dove poi li sgozzano? No, non è che proprio li sgozzano. È che li strappano la testa, no? Tipo le rockstar degli anni 70. Come Ozzy Osbourne o Easy Delessi, no? Sì, ma qui per quanto ne abbiamo? Il tempo che serve. Ho capito, ma io di là i polli che mi vanno in sbattimento, Non è che qui dentro farebbero una fine migliore. Usciamo, voglio parlare con gli altri. Radio Reconnaissance! Trasmettiamo ora confessione di rockstar Easy Delancey infedele americano dai microfoni di Radio Recommendation. Parla, cretino! Salve, mi chiamo Easy Delancey e se rivedo il mio passato di rockstar maledetta, ammetto di aver esagerato nel promuovere i miei dischi. Giusto. Le persone mi rimproverano ancora di aver staccato a morsi le teste di galline vive nei concerti. Non si fa, questa cosa brutta, ma che se ne frega, vai avanti con proclamo. Avanti, siamo qui a Recommendation. Io non sono fiero di questo. Questo va bene, ma che se ne frega. Ma questa campagna non riguarda Easy Delancey. Appunto. Riguarda qualcosa di molto, molto più grosso. Molto più grosso, riguarda... la crudeltà. Vabbè. Lo sapevate che ogni giorno negli Stati Uniti vengono uccise più galline di tutte le persone che sono morte in Ruanda per il genocidio? Come Ruanda? E nel Afghanistan? La crudeltà è crudeltà. Ma che crudeltà? A prescindere che le vittime siano galline o poveri africani denutriti. Ma quale africano? Arcmane! Ignorante rockstar, tu scoso! È la quinta che lo fai! Intanto, nella fabbrica, Grissom e primo di classe si pongono interrogativi sulla dinamica dell'accaduto. E fosse stato un incidente? E come si è finito a faccia in giù proprio in mezzo alla piastra? È un messicano, forse ha ubriaco di tequila, inciampato, è difficile, ma... Ma non impossibile. Infatti... Se ha toccato l'acqua con la corrente inserita, i suoi muscoli si sono irrigiditi impedendogli di alzarsi. Sì, però quando lui è morto poi la corrente era staccata, allora qualcuno ha staccato corrente dopo che lui è morto. Già. Chi? Non so. Contemporaneamente, il capitano Brass interroga i colleghi della vittima. Venga, ci teniamo qui. Lei come si chiama e quali mansioni ha? Ha visto la vittima ieri sera? Lei e Raimondo andavate d'accordo? No, senta, guardi, senta Rex, spostati. Questo lo lasci stare, è un minus habeas, non c'è da ascoltarlo. Questo non ha mai avuto problemi con nessuno, figuriamoci con Raimondo. Sa di qualcuno che li aveva? Ma che io sappia, no. Io di massima Raimondo andava d'accordo con tutti. A parte qualche menata col capo, vabbè. Cioè il proprietario dell'azienda? Che balzania! Ma no, ci stai zitto, ma che balzania! Il grande capo è l'amministratore delegato, no? Ma Raimondo era un dipendente di basso livello, crede che il grande capo avesse problemi con lui? No, non credo. Se non è un problema che gli scopava la moglie. In mancanza di altre cose da fare, Grissom e primo di classe, sempre nella fabbrica, continuano a porsi interrogativi sulla dinamica dell'accaduto. E quindi è qui che Raimondo episcopava moglie di grande capo? Sì, almeno credo. È strano posto per episcopare. No, se hai i polli come feticcio. Ah, vuole dire qualcosa come questo pollo di gomma? Questo dove l'hai trovato? Ho trovato un sacchetto di patatina. E sfortunatamente questo è il miglior indizio che abbiamo sull'assassino. Tornato alla centrale, il capitano Brass interroga l'amministratore delegato. Sì, sì, lo conoscevo, Raimondo, il Cocorito. Sì, sì, beh, non era male, mi piaceva. A quanto pare anche a sua moglie. Sembra che se la spassasse alla grande con Raimondo giù all'impianto. Vabbè, questo non è che mi stupisca più di tanto, insomma. D'altronde, se però io dovessi ammazzare tutti quelli che se la spassano con mia moglie, voglia. Non mi basterebbe il posto in magazzino. Quindi non le crea problemi? Ma, no, tutto sommato no. Insomma, mia moglie è un ghiute, è insaziabile. Non pretendo che mi capisca. No, capisco. Conosce questa signora? Mai vista. E quest'uomo? Questo sì. È stato ammazzato. Devo chiamare il mio avvocato? L'avvocato Zaragli, dello studio Zaragli e Zaragli. È libero di andare. Ciao. Che dici, stiamo solo tormentando un vecchio o è lui il colpevole? È un uomo qualunque che ha una vita normale, comune a tante altre. E all'improvviso, in un lampo, è tutto finito. E adesso per quell'uomo, la vera sofferenza comincia. E intanto, all'istituto di medicina legale, è in corso l'autopsia del cadavere. Le faccio vedere. La tua signora cementata ha più o meno dai 40 ai 45 anni. Ma cosa dice? È un uomo messicano, Raimondo? È morta per un'emorragia provocata dalla lacerazione del ventricolo destro. Ma non è vero? Si è fulminato con elettricità? Le ha trafitto il cuore entrando da uno spazio intercostale mediano sotto il processo xipoideo. Ma sì, xipoideo, ma senti come fa un messicano uomo morto elettrificato a diventare una donna accoltellata? Se lo sapessi, te lo direi. Ora devo tornare al lavoro. Ma come? Ti sembra finita questa autopsia? Hai scambiato uomo con donna? E mentre primo di classe continua a importunare il povero medico legale, Grissom, in preda a una delle sue solite crisi mistiche, si rivolge al confessionale elettrico della cappella di San Carlo. Buonasera, fedele. Confessa quel che ti sta più a cuore. Spera. L'umanità ha raggiunto un nuovo stadio evolutivo e da domani nessuno ammazzerà o stuprerà ancora? Mi sa che sei un po' fuori strada. Che peccato. Lo so, fatene una ragione, ma io ti conosco. Sfera, tu sei Grissom e sei qui per risolvere il caso dell'omicidio sulla sfera, o specifico piastra. Sì, allora? Sulla segreteria del servizio di assoluzioni telefoniche da oggi disponibile, ha chiamato una persona che potrebbe interessarti, Sfera. Fammi indovinare, Raimondo Suarez ha chiamato quel numero. Ma che Raimondo? Raimondo è la vittima, Sfera. Già. Non sono tenuto al segreto perché quel pidocchio non ha pagato a sufficienza. Spera, ascolta la chiamata. Pronto? Il confessionale elettrico? Sono il pollo sbattimento. Qui ho bisogno di una soluzione perché ho combinato un casino stanotte. Ho fatto fuori uno in laboratorio, un cocorito, Raimondo, e uno che lavorava con me. Ma non ho mica fatto apposta, è stato un incidente. E questo qui è arrivato lì col suo radiolone, no? E come fa sempre mi rompeva questo suono della lambada. E io avevo un po' le balle girate e gli ho dato un rusone con la figlia sulla piazza, è rimasto secco, non ho mica fatto apposta, E adesso ho bisogno di una soluzione, perché sennò c'ho il groppo io, il groppo in gola. Come? Io ho bisogno della soluzione, è costituzionale. Qui come funziona? Se c'è un bottone... E quindi l'assassino era Apollo in sbattimento? Sì. Ma com'è possibile? Lui fa vita tranquilla. Tutte le mattine prende paroxetina, pillola piccolina. Io so com'è perdersi nelle piccole cose. Lo so. Diventi preda di esse. Lo so, tu sei entomologo, Crisom, ti piacciono di zanzare. Ma quello lì è un pollo in sbattimento, non ha neanche un nome. Come fai di arrestarlo? Non mi serve un nome per arrestarti, posso chiamarti ignoto. No, io sono il pollo sbattimento. Ammettiamo che tu non sappia veramente di chi sia quel cadavere che giaceva a pochi passi da dove ti abbiamo trovato. Vabbè, Raimondo. Però non resisto alla tentazione di immaginare che nel tentare di liberarti del cadavere abbia commesso un errore. Lavoro troppo di fantasia? E certo che lavoro troppo di fantasia. Anzi, a proposito, io c'ho un sacco di robe da far di là e devo tornare a sgobbare. Ti suggerisco di scrivere Trixie sulla busta, perché è così che ti chiamerà il tuo compagno di cella. Che Trixie? Portalo dentro. Come dentro? Ma no, qui c'è un errore, eh. Ma qui c'è un errore e un complotto, eh. Sono come Pietro Manfreda, eh. E qui sono davanti servizi deviati. Ma no, non importate, non ho fatto niente, eh. Devo io lavorare, ecco com'è con gli operai. Uno lavora tutta la vita e poi dopo ti portano in galera. Vabbè, ma cosa fai? Interrompi anche la sigla di CSI? Ma sì, basta. Sigle, basta, serie. Drago, abbiamo fatto 200 puntate della Fabbrica di Polli. Siamo stati inglobati da CSI. Secondo me ormai non c'è più niente da fare. Anzi, c'è solo l'ultima cosa da fare. Ringraziare come si deve chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui. Grazie. No, ma non è così come si deve. No, com'è? No, è così. Stasera dobbiamo soffiare 200 bicchieri tra l'oggi e lo ieri. Forza, dobbiamo brindare. Come se mezzanotte fosse un angolo bar. 200 ancora ne vogliamo. 200 messaggi di baci e abbracci che arrivano dall'internet e noi vi rispondiamo con un solo di sas. 200 ancora, 200 ancora, ancora. 200 sulla mia 3, 200